Ad alta voce, Patrizia Zappamulas legge Nemici, una storia d'amore, di Isaac Singer. Traduzione di Bruno Dera. La casa nella quale Herman abitava con Jadwiga era un vecchio edificio. Vi si erano stabilite molte anziane coppie di profughi che avevano bisogno d'aria pura per la loro salute. Pregavano nella vicina piccola sinagoga e leggevano i giornali yiddish. Nelle giornate afose portavano panchette e sedie pieghevoli in strada e sedevano tutti insieme, chiacchierando della patria lontana, dei loro figli e nipoti americani, del crollo di Wall Street nel 29 e delle guarigioni ottenute mediante bagni di vapore, vitamine e acque minerali alle sorgenti di Saratoga. Herman, di tanto in tanto, provava il desiderio di far conoscenza con quegli ebrei e con le loro mogli, ma le complicazioni della sua esistenza rendevano necessario evitarli. Ora si affrettò a discendere i gradini traballanti e voltò fulmineo a destra, nella strada, prima che qualcuno di loro potesse fermarlo. Era in ritardo con il suo lavoro per Rabbi Lampert. L'ufficio di Herman si trovava in un palazzo della 23esima strada, vicino alla 4th Avenue. Poteva arrivare alla sotterranea di Stillwell Avenue percorrendo la Mermaid o la Neptune o la Surf Avenue, oppure passando per la Boardwalk. Ognuno di questi itinerari aveva le sue attrattive, ma quel giorno egli scelse la Mermaid Avenue. Era una via che aveva il sapore dell'Europa orientale. Ancora si vedevano sui muri manifesti dell'anno prima che annunciavano cantori e rabbini e i prezzi dei posti nella sinagoga per i giorni delle grandi festività. Dalle trattorie e dai ristoranti automatici giungevano i profumi della minestra di pollo, del fegato tritato. I fornai vendevano dolciumi con uova, strudel e pizzette di cipolla. Davanti a una bottega donne stavano brancolando dentro barili per toglierne sottaceti all'aneto. Anche se non era mai stato un uomo di grande appetito, la fame degli anni nazisti aveva lasciato in Herman un senso di eccitazione che si destava alla vista del cibo. La luce del sole cadeva su cassette e ceste di arance, banane, ciliegie, fragole e pomodori. Agli ebrei era consentito vivere liberamente lì. Sul viale principale e nei viali principali, le scuole bollate che esponevano le loro insegne, c'era persino una scuola yiddish. Mentre camminava, Herman cercava con lo sguardo nascondigli, nell'eventualità che i nazisti fossero arrivati a New York, sarebbe stato possibile scavare un bunker in qualche luogo, lì nei pressi? Avrebbe potuto nascondersi nel campanile della Chiesa Cattolica? Non era mai stato partigiano, ma ora pensava spesso a posizioni dalle quali si potesse sparare. In Stillwell Avenue, Herman voltò a destra e il vento caldo lo investì insieme all'odore soave del gran turco soffiato. Imbonitori invitavano la gente a entrare nei baracconi del parco dei divertimenti. C'erano giostre, tiri al bersaglio, medium che evocavano gli spiriti dei morti per 50 centesimi di dollaro. All'ingresso della sotterranea, un italiano dagli occhi gonfi picchiava con un lungo coltello su una sbarra di ferro, gridando ripetutamente una sola parola, con una voce tale da dominare su tutto il tumulto. Vendeva zucchero filato e un gelato molle che si scioglieva non appena messo nel cono. Dall'altro lato, l'oceano scintillava al di là di uno sciame di corpi, l'abbondanza di colore, la prosperità, la libertà, per quanto tutto fosse a buon mercato e scadente, stupiva Herman ogni volta che assisteva alla scena. Discese nella sotterranea. Passeggeri, quasi tutti i giovani, si riversavano da ogni treno. In Europa Herman non aveva mai veduto facce selvagge come queste. Ma lì i giovani sembravano dominati dalla brama del godimento più che da quella della malvagità. I ragazzi correvano, gridavano, si spingevano a vicenda come arieti. Molti di loro avevano occhi neri, fronti basse e capelli ricciuti. C'erano italiani, greci, portoricani. Le ragazze, piccolette, con i fianchi larghi e i seni alti, portavano cestini con la colazione, coperte da stendere sulla sabbia, creme abbronzanti e ombrelloni con cui proteggersi dal sole, ridevano e masticavano gomma. Herman salì le scale della sopraelevata e un treno arrivò ben presto. Quando gli sportelli si aprirono, sentì una folata d'aria calda. I ventilatori ronzavano, lampadine nude abbagliavano gli occhi, strilloni di giornali e venditori di noccioline erano disseminati sul pavimento di cemento rosso. Alcuni passeggeri si stavano facendo lucidare le scarpe da ragazzetti negri seminudi, inginocchiati ai loro piedi come adoratori di idoli d'altri tempi. Su un sedile si trovava un quotidiano yiddish, dimenticato da qualcuno, ed Herman lo prese e lesse i titoli. Stalin aveva dichiarato in un'intervista che il comunismo e il capitalismo potevano coesistere. Inviavano battaglie tra gli eserciti comunisti e quelli di Chiang Kai-shek. Nelle pagine interne del giornale, profughi descrivevano gli orrori di Majdanek, Treblinka e Auschwitz. Un testimone oculare che era riuscito a fuggire faceva la descrizione di un campo di lavori forzati nella Russia settentrionale, dove rabbini, socialisti, liberali, preti, sionisti e trotskisti scavavano in cerca d'oro e morivano di fame e di beriberi. Herman credeva di essere ormai assuefatto a quegli orrori, eppure ogni nuovo oltraggio lo scandalizzava. L'articolo terminava con la promessa che un giorno sarebbe stato istituito un sistema fondato sull'uguaglianza e sulla giustizia, tale da sanare i mali del mondo. E con questo? Sono ancora intenti alla terapia? Herman lasciò cadere il giornale sul pavimento. Frasi come un mondo migliore e un domani più luminoso gli sembravano una bestemmia pronunciata sulle ceneri dei tormentati. Ogni volta che udiva il cliché secondo il quale quei sacrificati non erano morti invano, l'ira si levava in lui. Ma che cosa posso fare? Contribuisco anch'io con la mia parte di male. Herman aprì la borsa, le tolse un manoscritto e lo lesse, prendendo appunti. Il modo con il quale si guadagnava da vivere era bizzarro come ogni altra cosa capitatagli. Era diventato il negro di un rabbino. Anche lui prometteva un mondo migliore, nel paradiso terrestre. Leggendo, Herman fece una smorfia. Il rabbino stava vendendo Dio come Terah aveva venduto idoli. Herman riuscì a trovare una sola giustificazione per quanto concerneva se stesso. Quasi tutte le persone che ascoltavano le prediche del rabbino o leggevano i suoi saggi non erano nemmeno loro del tutto oneste. Il giudaismo moderno aveva un solo scopo: scimmiottare i gentili. Gli sportelli del treno si aprivano e si chiudevano. Herman alzava gli occhi ogni volta. Senza dubbio c'erano nazisti che vagavano a New York. Gli alleati avevano proclamato l'amnistia per 750.000 di piccoli nazisti. Le promesse di pace erano state menzogne sin dall'inizio. Chi avrebbe condannato i delinquenti? La loro giustizia era un inganno. Non avendo il coraggio di uccidersi, Herman doveva chiudere gli occhi, turarsi le orecchie, precludere la mente, vivere come un verme. Herman sarebbe dovuto passare dal rapido al treno locale a Union Square per poi scendere alla fermata della 23esima strada, ma quando alzò gli occhi vide che il convoglio era già arrivato alla stazione della 34esima strada. Salì e discese le scale fino al marciapiede opposto e da lì salì su un treno diretto in centro, però di nuovo non si accorse della sua fermata e andò troppo oltre, fino a Canal Street. Queste distrazioni nella sotterranea, la sua abitudine di mettere via le cose, di non ricordarsi dove fossero, di finire in strade mai viste, di perdere manoscritti, libri e taccuini, pesavano su Herman come una maledizione. Egli non faceva che frugarsi le tasche in cerca di qualcosa che aveva perduto, non trovava la penna stilografica o gli occhiali da sole, il portafoglio spariva, non riusciva più a ricordare il suo numero di telefono. Comprava un ombrello e quel giorno stesso lo lasciava in qualche posto. Metteva un po' di galosce e le perdeva di lì a poche ore. A volte immaginava che folletti e spiritelli maligni gli stessero combinando brutti tiri. Finalmente arrivò all'ufficio, situato in uno degli edifici di proprietà del rabbino. Il rabbino Milton Lampert non aveva una congregazione, pubblicava articoli su giornali ebraici di Israele e collaborava a periodici anglo-ebraici in America e in Inghilterra. Aveva contratti per la pubblicazione di libri con numerose case editrici, era richiesto per conferenze nei centri di varie comunità e persino nelle università. Il rabbino non aveva né il tempo né la pazienza di studiare o di scrivere. Aveva accumulato una fortuna grazie alle proprietà immobiliari. Possedeva una mezza dozzina di case per convalescenti. Aveva costruito palazzi d'appartamenti a Borough Park e a Williamsburg. Era socio in una ditta appaltatrice di costruzioni edilizie del valore di milioni di dollari. Disponeva di un'anziana segretaria, una certa signora Regal, che continuava a tenere alle proprie dipendenze sebbene trascurasse il lavoro. Si era già una volta separata da una moglie, ora vivevano di nuovo insieme. Il rabbino definiva ricerche il lavoro che Herman svolgeva per lui. In realtà era Herman a scrivere i libri del rabbino, i suoi articoli, i suoi discorsi. Li scriveva in ebraico o in yiddish, qualcuno li traduceva e una terza persona li rivedeva. Herman lavorava da parecchi anni per Rabbi Lampert. Il rabbino era molte cose contemporaneamente, incallito e di buon cuore, sentimentale, astuto, brutale, ingenuo. Riusciva a ricordare oscuri commenti della Shulchan Aruch, ma commetteva errori citando un verso del Pentateuco. Investiva in borsa, giocava d'azzardo e raccoglieva fondi per ogni sorta di cause caritatevoli. Era alto più di 1,80 m, aveva la pancia e pesava 97 kg. Si atteggiava a Don Giovanni, ma ben presto era diventato manifesto a Herman che il rabbino non aveva fortuna con le donne, continuava a cercare il vero amore e spesso si rendeva ridicolo con quella ricerca, a quanto pareva senza speranze. Si era spinto tanto oltre che una volta, in un albergo di Atlantic City, un marito gli aveva sferrato un pugno sul naso. Le sue spese superavano spesso le entrate, o almeno così egli faceva risultare sul modulo della denuncia fiscale. Andava a letto alle 2 e si svegliava alle 7 del mattino. Mangiava bistecche da 900 grammi, fumava sigari Havana e beveva champagne. Aveva la pressione pericolosamente alta e il medico continuava a metterlo in guardia, paventando un attacco cardiaco. A 64 anni la sua energia non era venuta meno e tutti lo conoscevano come il rabbino dinamico. Era stato sotto le armi come cappellano militare durante la guerra e si vantava con Herman di essere arrivato al grado di colonnello. Herman aveva appena varcato la soglia dell'ufficio che il telefono squillò. Rispose, e dall'altra parte del figlio, il rabbino cominciò immediatamente a urlare con la sua forte voce di basso. «Dove diavolo è stato? Doveva presentarsi in ufficio stamattina? Dov'è il mio discorso per Atlantic City? Dimentica che devo ancora rivederlo, oltre a tutto il resto che ho da fare? E come gli è saltato in mente di andare ad abitare in una casa senza telefono? Quando una persona lavora per me, devo poterla raggiungere, non la voglio rinchiusa in una tana da topi! Ah! Lei è ancora un ingenuo immigrato. Questa è New York, non è Chifkaf. L'America è un paese libero. Lei non ha alcuna necessità di nascondersi qui. A meno che non stia guadagnando denaro illegalmente o facendo soltanto il demonio sa che altro. Glielo dico oggi per l'ultima volta. Faccia mettere il telefono dove alloggia o i nostri rapporti di lavoro sono finiti. Aspetti, vengo lì. Devo parlare di una cosa. Rimanga dov'è. Rabbi Lampert riattaccò. Herman cominciò a scrivere rapidamente, con lettere minuscole. Quando aveva conosciuto il rabbino, si era intimorito all'idea di ammettere che aveva sposato una contadina polacca. Si era limitato a dire di essere vedovo e di aver preso in affitto la stanza in sovrappiù di un amico povero del suo paese, un sarto, che non aveva il telefono. Il telefono di Herman, a Brooklyn, era intestato a Jadwiga Prach. Più volte Rabbi Lampert aveva domandato se potesse far visita a Herman dal sarto. Per il rabbino era un piacere tutto particolare poter guidare la sua Cadillac nelle vie di un quartiere povero. Inoltre, egli si godeva l'impressione destata dalla sua grande mole e dagli abiti eleganti che indossava, e gli piaceva rendere favori, trovare lavoro per i bisognosi, scrivere lettere di raccomandazione a istituti filantropici. Herman, fino a quel momento, era riuscito a dissuadere il rabbino dal fargli visita. Aveva spiegato che il sarto era troppo timido per ricevere altre persone e che, in seguito alle esperienze nei campi di concentramento, dava prova di un certo squilibrio mentale e avrebbe anche potuto non far entrare Lampert in casa sua. Hermann, inoltre, aveva reso assai più tiepida la curiosità del rabbino, accennando, come per caso, al fatto che la moglie del sarto era zoppa e che la coppia non aveva figli. Il rabbino preferiva le famiglie dove c'erano ragazze. Rabbi Lampert continuava a dire a Hermann che avrebbe dovuto traslocare. Era arrivato al punto di proporgli un matrimonio. Gli aveva offerto un appartamento in una delle sue case. Hermann si era affrettato a spiegare che il vecchio sarto gli aveva salvato la vita e gli occorreva $1,000 della pigione versatigli dal suo amico. Una bugia portava all'altra. Il rabbino pronunciava discorsi e scriveva articoli opponendosi ai matrimoni misti. Più di una volta lo stesso Hermann aveva dovuto elaborare questo tema nei suoi scritti per quell'uomo, ponendo in guardia dalle unioni con i nemici di Israele. Come si sarebbe potuto spiegare in modo ragionevole il suo modo di agire? Aveva peccato contro il giudaesimo, la legge americana, la moralità. Stava ingannando non soltanto il rabbino, ma anche Masha. Eppure era incapace di comportarsi diversamente. La pura bontà di Jadwiga lo tediava. Quando parlava con lei era come se fosse solo. E l'altra, Masha, era tanto complicata, cocciuta e nevrotica, che non riusciva a dire la verità nemmeno a lei. L'aveva persuasa del fatto che Jadwiga era frigida, promettendole solennemente di liberarsi di Jadwiga non appena lei avesse divorziato dal marito, Leon Torschiner. Hermann udì passi pesanti, e il rabbino spalancò la porta. Riusciva a malapena passare. Alto, grosso, un uomo enorme, dalla faccia paonazza, con le labbra tumide, il naso a becco e sporgenti occhi neri. Calzava scarpe gialle e portava una cravatta trapuntata in oro e fermata da una spilla con perla. Aveva tra le labbra un lungo sigaro. I capelli neri, striati di grigio, sporgevano a ciuffi da sotto il cappello Panama. Gemelli con rubini gli luccicavano ai polsi e sulla sua mano sinistra splendeva un anello a sigillo con diamante. Si tolse il sigaro di bocca, fece cadere la cenere sul pavimento e urlò. «Adesso comincia a scrivere! Il lavoro avrebbe dovuto essere pronto da giorni! Non posso aspettare in questo modo fino all'ultimo momento! Che cosa scribacchiatoli? Sembra già troppo lungo! Una conferenza di rabbini non è la riunione degli anziani di Chifkaf! Qui siamo in America, non in Polonia! E cosa mi dice del saggio su Belshem? Sarebbe già dovuto partire, c'è una scadenza precisa, se non riesce a farcela, me lo dica per piacere, e troverò qualcun altro, oppure parlerò in un dittafono e lo farò battere dalla signorina Regal. Tutto sarà pronto oggi. Mi consegni le pagine che ha terminato, e una volta per tutte, mi dia il suo indirizzo. Dove abita? All'inferno? Comincio a pensare che lei abbia una moglie in qualche posto, e me la stia nascondendo. Hermann sentì di avere una bacciuccia. Magari avessi una moglie. Se l'avesse voluta, l'avrebbe. Mi ero dato da fare per sceglierle una donna come si deve, ma non ha voluto nemmeno conoscerla. Ma di che cosa ha paura? Nessuno la trascinerà con la forza sotto il baldacchino nuziale. Allora, sentiamo, qual è il suo indirizzo? Davvero non è necessario. Insisto perché me lo dia. Ho qui l'agenda degli indirizzi, ebbene? Hermann gli diede il suo indirizzo nel Bronx. Come si chiama il suo padrone di casa? Joe Pratch. Pratch? Nome insolito. Come si scrive? Farò mettere un telefono e dirò che mandino la fattura delle spese a questo ufficio. Non può far mettere il telefono senza il suo consenso. E perché dovrebbe importargliene? Gli squilli della suoneria lo spaventano. Gli ricordano i campi di concentramento. Ci sono altri profughi che hanno il telefono. Lo farò mettere nella sua stanza. Ma sarà meglio anche per lui. Se è malato, dovrebbe poter essere in grado di chiamare un medico o chiedere aiuto. Ah, lunatici! Pazzi! Ecco perché abbiamo una guerra ogni pochi anni. Ecco perché spuntano gli Hitler. Pretendo che lei rimanga 6 ore al giorno in ufficio. C'eravamo accordati in questo senso. Pago l'affitto e lo detraggo dalle tasse. Se un ufficio è sempre chiuso, allora non è più ufficio. Ho abbastanza grana anche senza di lei. Rabbi Lampert si interruppe e poi disse: «Volevo che fossimo amici, ma qualcosa in lei rende la cosa difficile. Potrei aiutarla, molto, ma si rinchiude come un'ostrica. Quali segreti sta nascondendo dietro le proverbiali 7 serrature? Herman non rispose subito. Chiunque sia passato per tutto quello che ho dovuto subire io non fa più parte di questo mondo, disse infine. Cliché! Parole vuote! Lei fa parte di questo mondo quanto tutti noi. Può essere arrivato 1000 volte sino a un passo dalla morte, ma finché è vivo e mangia e cammina e, mi scusi, va al gabinetto, allora è fatto di carne e di sangue come tutti gli altri. Conosco centinaia di superstiti dei campi di concentramento, alcuni dei quali erano già praticamente incamminati verso le camere a gas, e ora si trovano proprio qui in America, guidano automobili, si dedicano agli affari. O lei si trova nell'aldilà, oppure in questo mondo. Non può restare con un piede sulla terra e l'altro in cielo. Sta recitando una parte, ecco tutto. E perché? Dovrebbe essere sincero con me, più che con chiunque altro. Lo sono. Che cosa la cruccia? È malato? No, non proprio. Forse è impotente? Sono soltanto i nervi, non è niente di organico. Non sono impotente. Di che cosa si tratta, allora? Non starò a imporre la mia amicizia, ma chiamerò oggi stesso e farò mettere il telefono. La prego, aspetti ancora un po'. E perché? Il telefono non è un nazista, non divora la gente. Se lei ha una nevrosi, vada da un medico. Forse ha bisogno di uno psicanalista, no? Non si spaventi, però, non significa che sia pazzo. Anche le persone più in gamba vanno dagli psicanalisti. Persino io mi sono fatto psicanalizzare per qualche tempo. Ho un amico, un certo dottor Berciowski di Varsavia. Se la mandassi da lui, le farebbe pagare poco. Sinceramente, rabbino, io non ho proprio niente che non vada. Va bene, niente. Anche mia moglie insiste nel dire che non ha niente, ma è ugualmente una donna malata. Accende il fornello a gas e va a fare la spesa. Apre i rubinetti della vasca da bagno, ci lascia dentro uno straccio che ottura lo scarico. Io siedo alla scrivania e tutto a un tratto vedo un lago sul pavimento. Le domando perché faccia queste cose e subito diventa isterica e comincia a imprecare contro di me. Ecco perché esistono gli psicanalisti, per aiutarci prima che ci ammaliamo a tal punto da dover essere rinchiusi in un manicomio. Sì, sì, sì, rabbi. Bene, parole gettate al vento. Vediamo che cosa ho scritto.